Bolsonaro non teme il Covid, Hong Kong, arresti eccellenti, Sahel, strage da parte dei governativi. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Critics blame President Jair Bolsonaro. He's continually downplayed the virus and ignored calls for physical distancing. To Hong Kong now, where police have arrested 15 high-profile democracy campaigners in connection to the massive protests last year. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît des attaques meurtrières très fréquentes dans les régions du nord et de l'est, mais aussi dans la capitale Ouagadougou. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, buon inizio di settimana, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono, come ogni giorno, Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi Danilo Di Trani in assistenza e in console c'è Andrea Roccabella. Vi ricordo il 349-238-6666 che è il numero per sms e whatsapp per domande e commenti sui temi che tratteremo in questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano. Potete commentare anche attraverso Facebook, la pagina è Nessun Luogo trattino Radio 24, dalla pagina Facebook di Radio 24 trovate anche la diretta e ho un occhio sempre puntato ai commenti che appaiono lì. E infine Twitter, Nessun Luogo 24 è l'account della trasmissione, ovvero il mio personale che è Giampaz. Oggi tre pagine in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Partiamo dal Brasile, che ha una situazione particolarmente complessa nella gestione del coronavirus, e in più ci si è messo un Jair Bolsonaro che a Brasilia ha messo in scena qualcosa che ha fatto saltare sulla sedia analisti, forze democratiche brasiliane, ve ne darò conto tra pochissimo. Hong Kong, ondata di arresti eccellenti, ben 15 le figure più preminenti probabilmente del fronte democratico. Cercheremo di capire perché arrivano proprio adesso queste ondate di arresti. Infine in Sahel, strage dei governativi in Burkina Faso. Tutto ciò avviene il giorno dopo che si è votato in Mali. Questi i temi di quest'oggi. La prima cosa da fare però è sfogliare i nostri dossier internazionali. Come vi dicevo, si è votato in Mali nonostante un po' di fattori contrari, nonostante il Covid, 216 casi confermati, 13 decessi, ma sappiamo che le statistiche africane non sono esattamente attendibili per la, per esempio, semplice quasi impossibilità di effettuare i tamponi. Dicevo, ci sono stati un po' di fattori che remavano contro: il Covid, le minacce dei gruppi jihadisti che sono arrivate anche nei giorni immediatamente precedenti a questa tornata elettorale, il rapimento del leader dell'opposizione Sissé, l'astensionismo all'orizzonte. Tenete conto che normalmente in Mali, quando si va a votare, se vota il 15% della popolazione, è già un buon risultato. Nonostante tutti questi fattori, si è andata a votare per il secondo turno del rinnovo dell'Assemblea Nazionale, sostanzialmente il nostro Parlamento. Andavano scelti 125 dei 147 deputati, era il secondo turno, si è votato fino alle 18, non vi sono stati incidenti particolari se non che alcune province del nord, quel teatro molto spesso di scorribande di formazioni jihadiste, si è avuto un tasso di affluenza altissimo, il che ha destato evidentemente qualche sospetto. Pensate, alcuni deputati sono stati eletti con 91-97% dei suffragi. A Kidal l'85% della popolazione è andata a votare, mentre, per fare un confronto, nella capitale, a Bamako, si è votato col 12,9% del voto. Così molti analisti africani hanno detto: attenzione, che il rischio di brogli nel nord del paese con deputati che verranno all'Assemblea di Bamako con l'appoggio e il benestare, il beneplacet delle formazioni jihadiste è certamente molto alto. E poi c'è quel mistero su Maïla Cissé, il capo dell'opposizione, quello che doveva far saltare sui banchi i governativi, sui banchi ovviamente dell'Assemblea Nazionale, sto parlando metaforicamente. Ebbene, era stato rapito proprio mentre era in campagna elettorale. Il suo partito dice che sono in corso delle operazioni per il rilascio, ma per il momento ancora non si sa ancora molto. Mali, secondo alcune fonti locali, una notizia peraltro ripresa via Twitter da Luca Raineri, che è un analista della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è stato anche nostro ospite ogni tanto, vi sarebbe stato uno scontro proprio il giorno prima delle elezioni, quindi sabato, nel nord del Mali, tra sostanzialmente i due gruppi, quello affiliato ad Al-Qaeda e quello affiliato allo Stato Islamico. La notizia interessante, oltre al bilancio particolarmente pesante, almeno 60 morti, sarebbe morto il capo di questa fazione legata all'ISIS, che è Abdullah Hakim, detto Al-Sarawi, che è sostanzialmente uno dei capi appunto di ISIS, il secondo in comando. Se fosse confermata questa notizia, sarebbe innanzitutto l'ennesima prova che queste formazioni jihadiste, spesso Al-Qaeda e ISIS, si combattono, succede per esempio in territorio afghano, dicevo, sarebbe la prova che sono in corso bracci di ferro piuttosto importanti per il riequilibrio del potere anche in Mali. Arrivano intanto i vostri messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi dare conto piuttosto, prima di dar voce a voi, di un altro attacco avvenuto in Nigeria, non nel nord-est, quella zona ancora flagellata dalle incursioni di Boko Haram, ma nel nord-ovest, siamo nello stato settentrionale del Katsina. Tra venerdì e sabato 5 villaggi sono stati attaccati da gruppi di banditi. Secondo le fonti della polizia ci sono state 47 vittime. L'attacco sarebbe stato condotto da oltre 300 uomini armati a bordo di varie motociclette. Il modus operandi in quei territori è sempre lo stesso: normalmente ci si muove su queste motociclette molto agili, molto veloci, in due, in sella, armati fino ai denti, di tutto punto, per colpire e poi scappare, dileguarsi nel minor tempo possibile. I villaggi sono stati completamente saccheggiati, comprese tutti quei dispositivi sanitari che erano stati mandati dal governo di Abuja proprio per contenere il coronavirus. Non è chiara la matrice, ma bisogna sempre considerare che anche fosse banditismo puro, e qua non voglio lenire in qualche modo, no, questa etichetta, le bande criminali nigeriane sono molto molto ben organizzate e molto spesso dotate di armamenti importanti. Il tutto evidentemente si somma alla già questione particolarmente nevralgica invece nel nord-est della Nigeria, dove, come vi dicevo, Boko Haram continua a sferrare i suoi attacchi soprattutto nella zona attorno al lago Chad. Abbiamo citato l'Afghanistan come uno di quei teatri in cui ISIS e Al-Qaeda si combattono. Ebbene, queste due parole sembrano un po' evaporate dal lessico quando si affronta il quadrante afghano, perché la parola, l'hashtag se volete più utilizzato, è Taliban, i talebani. Perché? Perché sembrano riprendere in maniera sotterranea i colloqui col governo di Ghani, soprattutto per il rilascio, il tema del rilascio dei prigionieri, ma come spesso fanno i talebani, che, lo ripeto, non vanno considerati come un'entità monolitica, ma vi sono vari gruppi, varie bande, ognuno di essi risponde a logiche spesso anche assai diverse. Secondo l'emittente afghana Tolo News, gli attacchi da parte di gruppi talebani si sono moltiplicati nelle ultime settimane, questo a dispetto di quello che doveva essere appunto il famoso piano di pace. Tra i 30 e i 40 membri delle forze di sicurezza afghane hanno perso la vita in scontri iniziati domenica sera in tre diverse province: Takhar nel nord-est, Uruzgan nel sud e infine Balkh nel nord. Sempre Tolo News fa un conto molto spicciolo ma drammaticamente importante di come da quando si è firmato l'accordo di pace a Doha tra amministrazione statunitense e talebani stessi, gli attacchi dei Taliban siano aumentati, 2160 quelli sferrati contro le forze governative, pensate, solo tra il 6 marzo e il 10 aprile. Però vi dicevo che nel frattempo i talebani avrebbero rispettato quello che dovrebbe essere questo gioco di consegne tra vertici talebani che escono dalle prigioni afghane e forze di sicurezza, membri delle forze di sicurezza afghane che vengono rilasciati invece dai talebani. 20 soldati sarebbero stati, secondo quanto ha riferito uno dei portavoce talebani, rilasciati grazie anche a un intervento della Croce Rossa internazionale, però al momento né Croce Rossa né governo afghano hanno confermato questa notizia. Sappiamo, sono momenti estremamente delicati, probabilmente il rilascio o è appena avvenuto o sta per avvenire, e quindi qualsiasi dichiarazione in questo senso può andare a compromettere quella che è la sicurezza degli ostaggi. L'ultimo dossier che stiamo affrontando, che stiamo sfogliando, ci ha incuriosito un lungo articolo, un lungo editoriale sul Guardian a firma di Alan Bem, che è un analista che si occupa di sicurezza internazionale. Il titolo, nella colonna che è dedicata alle opinioni, nei tempi di coronavirus e di cambiamento climatico dobbiamo ripensare il concetto di sicurezza nazionale. E l'articolo è molto molto interessante e probabilmente sarà per noi un destro per costruire una puntata su questo tema, perché partendo dal caso australiano fa 2+2, diciamo il 2+2 è da un lato il Covid-19 e dall'altro ricorderete quella massiccia ondata di incendi che hanno messo a repentaglio la sicurezza di tanti australiani. Ecco, sono dovute intervenire anche le forze di sicurezza, l'esercito australiano, eppure l'Australia non era affatto in guerra. Ecco, forse è il caso, continua l'analista, di ripensare il concetto stesso di sicurezza nazionale, che forse non è più messo in pericolo da atti come il terrorismo, è un fenomeno che pure esiste, ma magari cambiamenti climatici, grandi cataclismi, terremoti e appunto epidemie. Ci sembrava uno spunto interessante che vi segnaliamo, era l'ultimo dossier. Adesso Andrea Roccabella, andiamo a Hong Kong. Con i suoni, i canti, le voci delle proteste di pochi mesi fa, sembra passata un'era geologica, sono cambiate totalmente le cose a Hong Kong, così come in Cina, così come in tutto il mondo, a causa del Covid, ma la protesta del fronte democratico non si è certo fermata. Vado per un attimo al 349-238-6666 prima di presentarvi il nostro ospite, che ci racconterà che cosa è accaduto. Una morsa si è stretta su alcune preminenti figure dell'opposizione hongkongese, cercheremo di capire perché proprio adesso, lo sapete, in Cina, a Hong Kong, ma in quella zona nulla accade per caso e la tempistica ha sempre un significato molto molto importante. C'è qualcuno che torna sul tema del Sahel, ci torneremo, sono i francesi a armare i terroristi nell'Africa subsahariana, fanno il buono e cattivo tempo. Io, gentile ascoltatore, la prego di sostanziare un po' meglio questa accusa, che se verificata sarebbe particolarmente importante, insomma particolarmente pesante per l'amministrazione francese. Lo ricordo, sono almeno 5.000 e qualcosa i militari, c'è stato un recente contingente di 600 uomini in più che stanno impegnati nell'operazione Barkhane, non soltanto in Mali ma anche in Burkina Faso, sto pensando anche al Niger. È vero, hanno interessi francesi, non c'è dubbio, alle miniere di uranio, garantire un sud dell'Algeria più sicuro, il Mali, le mani che si allungano anche sulla Libia, non nascondiamo gli interessi sotterranei francesi, però da qui ad armare i terroristi nell'Africa subsahariana, diciamo che soffiano sul fuoco, perché la presenza francese, complice anche, ricorderete, qualche mese fa Macron ha convocato un vertice di tutti i leader di quei paesi chiedendo chiaramente: noi francesi siamo i benvenuti qua, perché se siamo benvenuti continuiamo a dare la caccia ai jihadisti, se non lo siamo è meglio che ce lo diciate, allora magari leviamo le tende. Non l'avrebbero mai fatto, evidentemente. Qualcun altro torna sul tema nigeriano, mi manda una storia, una storia di trafficking, una storia di traffico per sfruttamento sessuale, è una storia molto lunga, quindi mi riprometto di leggerla assolutamente. Lo sapete, la Nigeria è uno dei più grandi hub forse del traffico di prostitute, Benin City in particolare. Questi vostri messaggi al 349-238-6666, ve ne sono altri, fra poco li leggerò. Fatemi però andare a Hong Kong. Perché? Perché sabato sono avvenuti gli arresti di 15 persone, i nomi sono i pesi massimi della vita politica della società hongkongese, tra i quali c'è il tycoon Jimmy Lai e c'è l'81enne Martin Lee. E poi chi c'è? Lo chiedo a Antonio Talia, redazione di Nessun Luogo è Lontano, smart working come noi tutti in questo periodo, esperto di Cina, di Sud-Est Asia. Antonio, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo. Buongiorno Giampaolo e a tutti gli ascoltatori. Sì, come dicevi, gli arresti di sabato hanno colpito, diciamo, i pesi massimi del fronte pandemocratico di Hong Kong. Ci sono attivisti, ci sono ex legislatori, ci sono politici. Ricordavi giustamente Jimmy Lai, che è appunto un miliardario, tycoon, che con il suo Apple Daily, un quotidiano, è sempre in prima fila a polemizzare con Pechino, ma anche una figura che in qualche modo sta al capo opposto dello spettro politico, come Jimmy Lai. Jimmy Lai è un avvocato 82enne che viene definito da tutti come il padre della democrazia a Hong Kong. E poi ci sono figure, in qualche modo si sono colpite non solo figure anche molto distanti politicamente, ma anche tre o addirittura quattro generazioni di attivisti e di esponenti del fronte pandemocratico, perché per un 82enne come Martin Lee abbiamo invece anche delle figure più giovani come Avery Hung o delle figure di mezzo come il Long Hair Long, che è un parlamentare noto per le sue contestazioni molto molto colorite, appunto come dice il nome e il soprannome, per i capelli lunghi. Sì. Allora, con la voce e il commento di Antonio Taglia stiamo tornando sul dossier caldissimo di Hong Kong e le sue pretese di maggiore autonomia, le sue rimostranze verso un governo centrale sul quale pesa un'influenza di Pechino che è molto molto presente, appunto. È stata la notizia di quest'estate, perché l'estate e poi la primavera abbiamo l'autunno, scusatemi, abbiamo raccontato con dovizia di particolari, persino dalla prima linea, dando voce a tanti giovani manifestanti che non sopportano questa ingerenza da parte di Hong Kong, vogliono il suffragio universale, vogliono l'amnistia per tutte le persone arrestate, i famosi 5 punti che erano al centro di quel braccio di ferro tra il fronte pandemocratico e Carrie Lam, la contestatissima capo dell'esecutivo di Hong Kong. Poi Hong Kong è finito un po' nel dimenticatoio, complice forse la disattenzione di alcuni media, complice evidentemente il Covid-19, adesso riemerge prepotentemente con questi 15 arresti. Antonio Taglia ha raggiunto due voci, due persone che adesso vi faccio sentire. La prima è Emily Lau, per dare un connotato immediatamente politico. Perché? Perché Emily Lau è l'ex presidente del Partito Democratico di Hong Kong, che ci racconta qual è il profilo degli arrestati e qual è la motivazione, perché Hong Kong è andata a colpire proprio queste persone. E poi Antonio lo citava prima, è uno di quelli che si è visto mettere le manette durante il weekend, che è Avery Hung. Partiamo da Emily Lau e la fotografia di quello che è avvenuto giusto sabato, sentite. The Legislative Council election will be held in the beginning of September. Le elezioni del Legislative Council si terranno a inizio settembre. Come sappiamo, solo 35 consiglieri, quindi solo la metà su un totale di 70, viene eletto col sistema del suffragio universale, mentre il resto viene scelto da un elettorato ristretto, come camere di commercio, banche, compagnie assicurative, eccetera. Insomma, il sistema non è affatto equilibrato. Di recente, però, alcuni esponenti della comunità di affari di Hong Kong, personaggi che hanno contatti con Pechino, mi hanno raccontato qualche indiscrezione. A Pechino si teme che il fronte pandemocratico possa vincere più della metà dei seggi, prendendo così il controllo della legislatura. Pechino sta inviando dei segnali. Non accetterà uno scenario di questo genere. Tanto che con i miei amici mi sono chiesta, bene, e allora cosa faranno? Ci imporranno la legge marziale? Insomma, penso che Pechino stia impegnando tutti i suoi mezzi per fare in modo che tutto questo non succeda, che il Legislative Council non venga controllato dal fronte pandemocratico, e forse cercheranno di screditare alcuni candidati prima e dopo le elezioni. Penso che faranno di tutto per impedirci un Parlamento i cui esponenti riflettono davvero il volere dei cittadini. Questa è la voce di Emily Lau, ex presidente del Partito Democratico di Hong Kong, che sostanzialmente fotografa una Cina che allunga le mani in maniera non soltanto politica, perché a questo punto la guerra diventa giudiziaria. Antonio Taglia, poi hai raggiunto Avery Hung, che lo possiamo dire quasi uno scoop, perché l'hai beccato che si stava togliendo le manette sostanzialmente. Sì, è stato rilassato sabato sera, ma insomma ha parlato solamente adesso. Sì, ecco, lui è il presidente della Lega dei Socialdemocratici di Hong Kong. Aiutaci a capire anche che figura è. Lui fa parte della generazione quella un po' più giovane, no? di una leva diversa rispetto ad altri nomi. Avery ha circa una trentina d'anni, fa parte appunto di questa Lega dei Socialdemocratici, che è un partito pandemocratico, ma diciamo è un po' il più radicale tra i partiti del fronte democratico. E lo avevo conosciuto nel 2014 durante le proteste di Hong Kong, e allora era solo il capo della Lega giovanile, adesso appunto è diventato il presidente. È un appunto un personaggio che è in prima fila dal 2008, quindi da quando era molto giovane, nelle lotte per ottenere una maggiore rappresentatività all'interno del minimo Parlamento di Hong Kong. Si è già visto, insomma, diverse volte comparire la polizia sotto casa, e questa volta, insomma, anche lui è stato portato in prigione. Sì. Allora, hai appena raggiunto, lo dicevamo, la Avery Yang, che ci racconta come si è svolta la catena dei arresti di sabato scorso. Sentite il suo racconto. So on Saturday morning, eight police officers showed up at my doorsteps. Dunque, sabato mattina, otto funzionari di polizia si sono presentati alla porta di casa mia. Mi hanno mostrato un mandato di perquisizione e mi hanno arrestato con l'accusa di aver organizzato e di aver partecipato a manifestazioni non autorizzate in due diverse occasioni. La prima risale al 1 ottobre dello scorso anno e la seconda al 21 ottobre. Mi hanno confiscato il telefono e una maglietta che indossavo durante una delle manifestazioni come prova e mi hanno condotto alla stazione di polizia. In quel momento non conoscevo la portata dell'operazione e il numero di arrestati, quindi ho provato a contattare altri membri del mio partito, come Longer Leung e Raphael Wong, ma nessuno dei due rispondeva. È stato solo dopo alcune ore alla stazione di polizia, quando finalmente mi hanno fatto incontrare il mio avvocato, che ho scoperto che l'operazione era così vasta. Quattro arrestati sono del mio partito, la Lega dei Socialdemocratici, ma in tutto sono stati arrestati 15 leader del fronte pandemocratico. La cosa più sorprendente, e direi anche più scioccante, è che tra gli arrestati c'è anche Martin Lee, che ha 82 anni e di fatto è il padre del movimento democratico a Hong Kong. Ora, ovviamente queste accuse sono di tipo politico, non credo che ci siano molti dubbi in merito. Mi pare che siano state un po' fabbricate su misura per noi 15, e questo perché lo scorso anno, tra agosto e ottobre, la polizia di Hong Kong semplicemente non rilasciava alcun permesso per organizzare alcun tipo di protesta, di marcia o di assemblea pubblica. Questo significa che qualunque tipo di manifestazione organizzata dai partiti di opposizione è stata di fatto resa illegale. È anche sorprendente che il governo di Hong Kong e il governo di Pechino abbiano deciso di denunciare proprio noi 15, dopo tutti questi mesi. Insomma, dopo diverse ore al comando di polizia, sono stato rilasciato, intorno alle 8 di sera, e il versamento di una cauzione di $2,000 di Hong Kong. E io e gli altri 14 arrestati dovremo presentarci in tribunale per il processo il 18 maggio. La voce che avete sentito è quella di Avery Yang, raggiunto da Antonio Taglia, il presidente della Lega dei Socialdemocratici di Hong Kong. Peraltro, nella lunga intervista che ha rilasciato ad Antonio, sottolinea da un lato che le pene in questo processo, che potrebbe durare mesi e mesi, non sono altissime, però dovete immaginare che questo politico e attivista entra e esce di prigione praticamente in maniera pedissequa. È una cosa ormai che quasi una prassi consolidata. Allo stesso tempo raccontava che sostanzialmente i giudici stanno premendo per avere pene più severe. L'Antonio Taglia lo ha poi solleticato su quello che è stato uno degli aspetti forse più controversi, cioè la parte più violenta delle espressioni pandemocratiche da parte dei giovani di Hong Kong. Davvero quella violenza si può combinare con le richieste di maggiore democrazia? Sentite che cosa ha detto Avery Yang ad Antonio Taglia. Well, the actual trial process will take months. Penso che l'intensità delle proteste negli ultimi mesi abbia subito un'accelerazione a causa dell'aumento dell'impiego della violenza da parte della polizia. È diventato una specie di circolo vizioso. La violenza delle proteste è aumentata, ma dopo gli arresti di alto profilo degli ultimi mesi, e anche a causa dell'epidemia da coronavirus, le proteste si sono ovviamente affievolite. Tuttavia, credo che una volta che il virus sarà sotto controllo, la gente tornerà a manifestare per strada. E quello che mi preoccupa è che a causa della linea dura adottata da Pechino, le violenze della polizia continueranno e il governo non risponderà affatto le nostre richieste su un vero suffragio universale. Insomma, mi sembra un quadro a tinte fosche per i prossimi mesi, se non per i prossimi anni. Assisteremo a un aumento delle marce e a un aumento degli scontri e a un aumento dei feriti. La comunità internazionale deve sapere che avremo bisogno di tutto il sostegno possibile per esercitare pressioni sul governo di Pechino e spingerlo a fare un passo indietro e concederci un minimo di democrazia e di dignità. Questo è l'accorato appello di Avery Young al microfono di Antonio Tale. Antonio, uno slogan, perché così chiudiamo questa prima pagina di Nessun Luogo è Lontano, in vista del 2047, un suffragio universale è qualcosa di plausibile, e più in generale chi si metterà della comunità internazionale contro la Cina in questo momento? Ma prima che arrivare al 2047 bisognerebbe arrivare a settembre. Molti intendono, pensano che questi arresti siano avvenuti proprio in vista delle elezioni che rinnoveranno il Legislative Council a settembre, lo diceva la stessa Emily Lau. Sì. Non dimentichiamo che a novembre già in delle elezioni locali si è avuta una vittoria a tappeto del fronte pandemocratico. Sì. Quindi in qualche modo tutti gli occhi sono puntati su settembre e contemporaneamente su uno stallo che è in corso al Consiglio Legislativo di Hong Kong in questo periodo. Da ottobre, pensate, non si riesce a votare una norma. Quindi in qualche modo le ultime grandi manifestazioni ci sono state a gennaio, poco prima dell'arrivo del Covid. Sì. Carrie Lam è in caduta libera, dei sondaggi di febbraio ci dicono che è la leader di Hong Kong con il gradimento più basso di sempre. Sì. In qualche modo tutta questa tempistica ci porta a dire che sì, c'è bisogno di un grande sostegno della comunità internazionale, perché in qualche modo Pechino non intende mollare la presa sul Legislative Council di Hong Kong. E vedremo quale sarà la risposta della comunità internazionale da qui a settembre. Grazie mille Antonio Tale, chiudiamo questa prima pagina in Nessun Luogo. Le borse velocissimi. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, pronti per sfogliare, aprire la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano, non prima di avervi letto un messaggio interessante che è arrivato al 349-238-6666. Questa pandemia indirettamente mette a rischio i movimenti democratici in giro per il mondo, offuscando e spegnendo i riflettori sulle singole situazioni. Così un ascoltatore. Non è certo il caso di quello che sta avvenendo in Brasile, perché Jair Bolsonaro è maestro nell'attirare l'attenzione a forza anche di dichiarazioni particolarmente provocatorie. Ne abbiamo raccolte tre su tutte. L'ultima, francamente, leggermente funestata da... non ve lo dico, ascoltiamo prima la voce di Bolsonaro. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E spero che non se ne avrà male l'ascoltatore, l'affezionato ascoltatore che mi accusa di antitrumpismo. Quest'oggi raccontiamo Bolsonaro, che d'altra parte si ispira in tante dinamiche a Donald Trump. Detto ciò qua, lo avete appena sentito minimizzare il Covid-19 chiamandolo influenzetta, adesso non saprei bene come tradurre dal portoghese brasiliano. Poi c'è l'accusa ai media, anche questo mi ricorda dannatamente il presidente Donald Trump, sentite. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor. Infine, c'è un episodio sul quale vorrei catturare la vostra attenzione. Poche ore fa era a Brasilia, dove c'era un centinaio di manifestanti. Era di fronte a una caserma militare, arringa la folla, scappano delle parole forse un po' forti, perché in particolare si è andato a toccare quello che è l'atto istituzionale numero 5, sostanzialmente alcuni manifestanti avevano questi cartelli, inneggiavano a questo, la sospensione del Parlamento. Questo cartello in un paese come il Brasile richiama a tempi davvero oscuri. Così Bolsonaro stava arringando queste centinaia di manifestanti particolarmente agguerriti e sentite cosa succede. Todos nós juramos um dia dar a vida pela paz. Adesso non ve lo facciamo sentire tutto, però parecchi colpito se vanno a interrompere il suo discorso, perché lo diciamo, perché da sempre minimizza il Covid-19, si è presentato in quello che era a tutti gli effetti un assembramento di centinaia di persone, le guardie del corpo vicinissime a lui, lui senza mascherina, a spregio di quelle che erano le indicazioni dell'ex, ormai dobbiamo dire, ministro della salute. Insomma, un Bolsonaro che si lura il ministro della salute, ma sarà vero, dimissioni, litiga con i governatori e poi fa quest'ultima appunto apparizione particolarmente teatrale. Chiediamo lumi a qualcuno che segue, racconta con interesse e con tenacia, devo dire, visto le vicende brasiliane, appunto le vicende brasiliane da tempo. Emiliano Guanella da San Paolo, buongiorno Emiliano, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora Emiliano, come leggere questa strana arringa, una folla di alcune centinaia di persone, però con cartelli pesanti, è una provocazione? Che cosa sta facendo Bolsonaro? Allora, Bolsonaro sta mandando al limite il discorso, sta tirando la corda il più possibile, se vogliamo dire. C'è un'altra frase di oggi in cui ha cercato di spiegare perché ieri un presidente della Repubblica stava arringando a una folla che chiedeva l'introduzione dell'ordine democratico. L'atto istituzionale numero 5 fu il primo atto della dittatura militare nel 63 in Brasile, che sospese tutte le libertà costituzionali. E lui dice, lo traduco così a braccio dal portoghese, sì: in genere si cospira per arrivare al potere, io già sto no poder, io già so o Presidente della Repubblica, io so realmente cosa tu so. Cioè dice, è incredibile che mi accusino di voler fare un golpe, se io sono già un Presidente della Repubblica. Ma Bolsonaro si scorda di dire che le persone che erano in piazza non chiedevano ovviamente un altro presidente, perché sono i suoi sostenitori, chiedevano di eliminare il Parlamento e la Corte Suprema, cioè sostanzialmente il potere legislativo e il giudiziario. Sì. Quindi Bolsonaro sta arrivando al limite. Tra l'altro questa manifestazione è stata convocata davanti al quartiere generale dell'esercito, nonostante i militari non siano assolutamente su questa linea e non siano, e questi sono comunque le dichiarazioni non dette, ma è vero, i militari non apprezzano questo discorso così estremo di Bolsonaro, che è negazionista sul Covid-19, che ha licenziato il ministro della salute perché il ministro era a favore della quarantena imposta dai governatori, e che continua a dire che si sta esagerando e che in realtà bisogna riaprire tutto, anche le scuole. Le uniche persone che devono rimanere a casa sono gli anziani e i gruppi a rischio, perché per Bolsonaro evidentemente i bambini o i lavoratori in genere non possono essere veicoli della trasmissione del coronavirus. C'è molta irrequietezza, incertezza e ovviamente poca simpatia per queste manifestazioni di Bolsonaro da parte degli altri istituzioni brasiliane, presidente del Senato, della Camera, parlamentari, politici, i partiti alleati a lui sono molto scettici e sono molto imbarazzati da questa sua posizione, però lui continua. Perché continua? Perché ancora oggi io direi almeno il 30% di appoggio sicuro in Brasile. 30% non è tanto, vi assicuro che in un paese sudamericano è molto difficile tirare dal potere, cioè togliere dal potere un presidente che ha ancora l'appoggio di circa un terzo della popolazione. Sì. La voce e l'analisi di Emiliano Guanella dal Brasile, da San Paolo del Brasile, ci racconta di un Bolsonaro che tira la corda, così riassumiamo anche utilizzando le stesse parole di Emiliano Guanella. Lo fa in una maniera maldestra anche dal punto di vista politico, mettendo in imbarazzo l'intero ambiente politico brasiliano, che certamente tutto vuole tranne che tornare a quei nefasti tempi in cui la dittatura era presente ed era vigile. Lo fa Emiliano Guanella anche appigliandosi ad una retorica francamente piuttosto piuttosto stanca, perché dire sono già al potere, mi state accusando di voler prendere il potere, mi sembra un gioco lessicale francamente piuttosto povero. Però volevo con te indagare un po' meglio il rapporto che lui ha con i militari. In alcuni racconti risalenti ormai a parecchi mesi fa, fatti per esempio da Le Monde, si raccontava di una sua carriera militare in realtà non particolarmente fulgita. Adesso ci dici che l'ambiente militare lo sto guardando con un filino più di sospetto. Potrebbe essere uno dei punti di rottura, secondo te, questa? Esattamente, il grande equivoco che si ha all'estero e in Italia, soprattutto quando la settimana scorsa un importante giornale diceva che i militari erano pronti addirittura a dare un golpe a Bolsonaro, non succede questo, però non è vero che Bolsonaro è l'espressione dei militari brasiliani. Per capire brevissimamente, i militari brasiliani sono in una condizione di assoluto privilegio, nel senso che quando il Brasile dopo 20 anni di dittatura è diventata una democrazia, certi privilegi economici da parte dei militari sono rimasti anche durante la recente riforma delle pensioni, sì, che è stata una riforma lacrime e sangue in Brasile. I militari sono stati sostanzialmente esclusi, quindi hanno pensioni di privilegio, si pensionano a 60 anni, le pensioni passano da padre, da genitori a figli, a nipoti, a vedove, vi dicendo, per diversi anni, e non hanno nessuna intenzione i militari brasiliani di avere un protagonismo politico in Brasile. Sì. Tra l'altro, la cosa paradossale è che i militari negli ultimi anni in Brasile sono stati sì chiamati in causa per determinati momenti, per esempio per proteggere la sicurezza, sì, a Rio de Janeiro durante i mondiali olimpiadi, come per no, scostruire strade in Amazzonia, per risolvere problemi di catastrofi naturali, per andare nel nord del paese quando c'è stato uno sciopero della polizia, quindi per problemi di ordine pubblico. Paradossalmente, in questa che è una grandissima emergenza, anche qui in Brasile, i militari non si vedono, non hanno costruito, come hanno fatto le forze armate in Italia, per esempio, ospedali da campo vicino agli ospedali, non hanno prestato assistenza alle popolazioni carenti. Quindi i militari non hanno nessunissima intenzione di avere un protagonismo politico in Brasile, e non vedono di buon occhio questi continui riferimenti a Bolsonaro, che fra l'altro ha avuto una carriera militare pessima, perché è stato militare, capitano dell'esercito per 10 anni, poi per rivendicazioni salariali ha commesso un attentato dentro una caserma a Rio ed è stato sostanzialmente non espulso, però invitato ad andarsene. Bolsonaro da 35 anni non è un militare, ma è un politico di professione che ha navigato attraverso 18 diversi partiti politici brasiliani di tutte le sigle e di tutti i colori, con tra l'altro non fare praticamente nulla al Parlamento, perché ha cofirmato 2 progetti di legge in 35 anni. Quindi è un grande equivoco pensare che c'è una lunga mano dei militari che appoggia Bolsonaro. Al contrario, è un Bolsonaro che arringa i suoi con una retorica militare, anche se i militari sono gli ultimi che vorrebbero in questo momento in qualche modo aiutare o appoggiare Bolsonaro in questa deriva sia autoritaria che negazionista su questa emergenza che è il Covid-19. Tanti chiaroscuri messi in luce, scusatemi il gioco di parole, dalla fotografia, nella fotografia di Milano Guanella, da San Paolo del Brasile, questa carriera di Bolsonaro, questo suo eclettismo, per usare un termine evidentemente un po' edulcorato, e poi gli ascoltatori che al 349-238-6666 non risparmiano le critiche, c'è qualcosa che dice è un pazzo furioso, gioca con le vite del suo popolo, Trump le fa grosse, poi tutto sommato ritratta e ritrattato, Bolsonaro le dice e le fa grosse, questo è il mood, diciamo, un po' la sensazione, la pancia e il termometro di molti degli ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666. Io ringrazio intanto Emiliano Guanella, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Emiliano, alla prossima. Grazie a voi, buon giorno. Con Refuse Resist, che è un po' un inno un po' anarchico, no? Di Sepultura, band metal brasiliana, c'è qualche ascoltatore che ho vedo anche con altri brani, insomma, che abbraccia un po' questo nostro anima che abbiamo noi stessi abbracciato negli ultimi mesi. Beh, brano particolarmente simbolico, direi, vista la situazione politica in Brasile. Tra pochissimo cambieremo continente, cambieremo atmosfera, torneremo ai noi, dobbiamo farlo, in Burkina Faso. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati. Questa è la terza pagina di Nessun Luogo Lontano, un racconto quasi da sfogliare, una prima e una seconda pagina dedicate a temi completamente differenti, con Brasile, con Hong Kong, e qualcuno torna ancora su quella che è la retorica incendiaria di Bolsonaro. Qualcuno mi accusa, fra l'altro dandomi del compagno, dandomi del voi, insomma, ma voi compagni, forse la redazione, usate negazionismo per tutto, più che altro perché si usa troppo, poi perde di significato come tutto, insomma, facendo riferimento al logorio semantico della parola negazionismo. È anche vero che non saprei che termine usare per qualcuno che dice che il Covid-19 è poco più di un'influenza e poi appunto lo si vede tossire senza mascherina davanti ai suoi accoliti, invocando sostanzialmente un colpo di Stato democratico a tutti gli effetti. Così risponde un ascoltatore dicendo: il curriculum di Bolsonaro è un monumento ai limiti dei sistemi democratici, aggiunge un scorato purtroppo. Detto ciò, perché andiamo in Burkina Faso? Sapete che è una regione, lo ripeto tante volte, apparentemente lontana, ma che cerchiamo di raccontare molto spesso, perché si sta instaurando una sorta di califfato, o almeno più califfati in tutte quelle zone. Ci torniamo perché le forze di sicurezza burkinabè avrebbero giustiziato 31 prigionieri al termine di un'operazione antiterrorismo nel nord del paese. L'operazione si è svolta il 9 aprile scorso nella città di Djibo. La denuncia arriva da Human Rights Watch, che ha raccolto una serie di testimonianze. Tutte le vittime erano uomini appartenenti all'etnia Peul, o Fulani se preferite, tutti uomini compresi tra i 20 e 60 anni. Sentite una delle voci che è stata raccolta proprio dagli analisti e dai ricercatori di Human Rights Watch. Verso le 4 del pomeriggio, dopo gli spari e dopo aver visto il convoglio rientrare a Djibo, siamo andati a cercare i nostri parenti. La scena era terrificante. Molti dei corpi erano a pezzi, come se gli avessero sparato con un'arma molto potente. Sono riuscito a identificare mio fratello dagli abiti che indossava. Questa è una delle tante testimonianze raccolte. In particolare ci ha lavorato Corinne Duvka, che è direttore associato presso Human Rights Watch, alla quale abbiamo chiesto qual è lo scopo dell'intervento di Human Rights Watch e cosa si vuole ottenere attraverso queste accuse, che sono anche molto pesanti ma allo stesso tempo molto circostanziate. Un attacco da parte dei soldati governativi a popolazioni inerme. Sentite che cosa dice. On a plusieurs raccomandazioni. D'abord, le gouvernement devrait mettre fin aux violations. Abbiamo alcune raccomandazioni, racconta Corinne Duvka. Prima di tutto ci aspettiamo che il governo metta fine a questo tipo di violazioni, che vada a investigare in modo approfondito su questo terribile incidente e utilizzi, continua il direttore, degli strumenti di lotta al terrorismo che non violino i diritti umani. Inoltre chiediamo alla comunità internazionale di fare pressione affinché il governo avvii un'indagine su quanto accaduto e affinché nessuna delle forze militari a sostegno delle forze burkinabè sia utilizzato dalle unità responsabili di questo incidente o delle tante atrocità commesse in passato e per le quali nessuno oggi ha ancora dato conto. È utile ricordare che c'è la presenza francese, ma non soltanto, e quindi capite bene che se le forze burkinabè governative si macchiano di tali nefandezze e di tali crimini, forse bisogna andare a indagare un po' meglio il sostegno internazionale in che ambito sta avvenendo. Vi portiamo nuovamente sul terreno, lo facciamo con la voce di Morey Yamomge, che è il direttore del sito di informazione burkinabè Wakatsera. Qual è stata la reazione del governo a questa denuncia pesantissima di Human Rights Watch? Sentite Yamombe. Il governo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali rispetto al rapporto di Human Rights Watch. Certo, bisogna dire che non è la prima volta che le forze di sicurezza sono accusate dalla popolazione o da organizzazioni della società civile di aver commesso dei soprusi sulla popolazione. Questo tipo di dinamiche si inserisce poi nel quadro più ampio dei conflitti etnici. In Burkina Faso, infatti, esistono forti tensioni tra gli allevatori, che sono di etnia Peul, e gli agricoltori, che generalmente sono di etnia Mossi, il gruppo maggioritario nel paese. Se da un lato questo tipo di conflitto c'è sempre stato, bisogna però sottolineare che ultimamente si sta aggravando la stigmatizzazione nei confronti dei Peul, spesso accusati di essere dei terroristi o complici dei terroristi. Questo fenomeno non si verifica solo in Burkina Faso, ma sta caratterizzando in generale tutta l'Africa occidentale. La regione di Tibo, dove sono avvenuti i fatti riportati da Human Rights Watch, è una delle più colpite dagli attacchi terroristici ed è a maggioranza Peul. Human Rights Watch è un'istituzione affidabile e queste cifre sono sicuramente frutto di un'inchiesta. Si può quindi dire che le forze di sicurezza si sono inserite nel conflitto etnico? Io credo di no. Preferisco avere un approccio più cauto. Attenderei ulteriori investigazioni, che devono essere condotte sul territorio e in maniera precisa. E questo richiede del tempo. Nel contesto però generato dal coronavirus, tutto è ovviamente bloccato. La maggior parte delle città sono in quarantena. Ouagadougou è in quarantena, non si può uscire né entrare. Quindi nella situazione attuale è difficile andare sul territorio a investigare. Di conseguenza, tutto quello che posso dire è che non ci sono state ancora reazioni ufficiali del governo rispetto al rapporto di Human Rights Watch. Ufficiale di governo par rapport a ce rapporto di Human Rights Watch. Questa è la voce di Moren Yamombe, direttore di Wakatsera, che ci fotografa con più precisione quello che sta accadendo. 349-238-6666, dalla voce dei Burkinabè alla vostra. Il problema è che noi interveniamo per dinamiche internazionali, ma quelle sul terreno, scrive un ascoltatore, sono sempre locali e la religione è solo un'etichetta. Appoggiare una fazione per i nostri interessi significa spesso e volentieri sposare agende tutt'altro che limpide. E questo ascoltatore direi che coglie nel segno, in particolare la popolazione Fulani e alcuni gruppi jihadisti si appoggiano nel reclutamento e vengono e sono essi stessi Fulani, evidentemente fa di tutto un'erba un fascio, situazione che ho visto, che abbiamo visto anche in Repubblica Democratica del Congo, in Ruanda, nella stessa Nigeria, nel nord-est, in cui l'etnia principale a cui attinge Boko Haram fa sì che l'intera etnia in qualche modo sia stigmatizzata, o almeno lo era, dalla maggior parte dei nigeriani. Torniamo alla voce del direttore di Wakatsera, perché c'è un altro tassello che vi abbiamo raccontato spesso nelle scorse settimane: l'entrata in vigore di quella legge che ha permesso l'arruolamento dei civili con un addestramento un po' raffazzonato. Poche settimane, si imbracciano magari armi rudimentali, si va a caccia di jihadisti. Qual è il bilancio di questa strana lotta al terrorismo fatta con i civili? Sentite. A oggi è molto difficile fare un bilancio degli effetti di questa nuova legge. Tutto quello che so è che i reclutamenti sono avvenuti. Si sa che molti civili sono già stati impiegati sul campo e si hanno notizie che riferiscono che questi corpi volontari avrebbero sconfitto dei gruppi terroristici o avrebbero comunque contribuito a fermare degli jihadisti. Non ci sono tuttavia dei rapporti ufficiali e neppure inchieste giornalistiche su questo argomento. C'è stato solo un rapporto pubblicato da una ONG che conferma l'utilizzo sul campo di questi civili. Ciò nonostante, gli attacchi continuano. Ma dal momento che il coronavirus monopolizza l'informazione, non si ha ancora un bilancio ufficiale. Così Moren Yamombe, direttore di Wakatsera, ha parlato anche di coronavirus. La fotografia, l'ultimissima giornata, casi confermati 576, decessi 36, ma come vi raccontavo prima, il teatro africano con delle strutture sanitarie francamente non a livello di quelle occidentali, e anche la diagnosi è molto diversa, anche se un ascoltatore prima mi rimbrottava, diceva: i dottori virologi dicono che i tamponi sono inattendibili, quindi dite questo quando date le notizie, ma al di là di questo, che francamente non entro, mi sembra un tema medico, ma da ciò a dire che i tamponi sono attendibili, penso ce ne corra un po'. È evidente che non possiamo comparare il sistema sanitario burkinabè a quello italiano o occidentale. Sono in ritardissimo e quindi Andrea Roccabella mi rimbrotta così. E io vi ringrazio così invece con i titoli di coda. Grazie per essere stati all'ascolto, grazie a tutta la squadra, Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è domani ore 16, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.